toccherò il tuo corpo come se fosse terra, cancellerò quei segni dell'ultima tua guerra e brucerò col fuoco quest'erba tua cattiva e ti farò con l'acqua più fertile e più viva. Pregherò che il sole asciughi questo pianto e pregherò che il tempo guarisca le ferite. Poi costruirò una serra intorno al tuo sorriso, farò della tua vita un altro paradiso. Sarò il tuo contadino e tu la terra mia, combatterò col vento che non ti porti via, poi spargerò il mio seme nella tua verde valle e aspetteremo insieme che venga primavera. Che venga primavera.